Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, cinti, pugni, calci, zappi, specchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Tra le tante definizioni io prediligo quella data dai geografi. I futuristi sono i mistici dell'azione. Infatti, i futuristi hanno combattuto e combattono il fatalismo sedentario sotto tutte le forme: prudenza diplomatica, logica pessimista, neutralismo, tradizionalismo, culto del libro, biblioteche, musei e professori. I futuristi hanno adorato e adorano la vita nella sua colorata e tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, goduta. Creare vivendo, talvolta contraddirsi, affermare, lanciarsi, battersi, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo, indietreggiare mai, marciare, non marcire. Nel 1909, mentre i patrioti si contentavano di polemizzare contro i negatori della sognata grande Italia d'oggi, noi futuristi imponevamo la nostra fede spavalda e aggressiva con milioni di manifesti e migliaia di conferenze nei teatri e nelle piazze rivoluzionate da noi. Mario Veneto e l'avvento del fascismo al potere costituiscono la realizzazione del programma minimo. Questo programma minimo propugnava l'orgoglio italiano, la fiducia illimitata nell'avvenire degli italiani, la distruzione dell'impero austro-ungarico, l'eroismo quotidiano, l'amore del pericolo, la violenza riabilitata come argomento decisivo, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, dell'ottimismo, ad ogni costo l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista. Il futurismo italiano tipicamente patriottico che ha generato innumerevoli futurismi esteri non ha nulla a che fare con i loro atteggiamenti politici come quello bolscevico del futurismo russo divenuto artefatto. Il futurismo è un movimento artistico e ideologico. Interviene nelle lotte politiche soltanto nelle ore di grave pericolo per la nazione. Il futurismo è anche, signori, un assieme formidabile e incandescente di genialità. Il futurismo opera invece nei domini infiniti della pura fantasia. O dunque, e deve osare, sempre più osare, temerariamente. Avanguardia della sensibilità artistica italiana, dal futurismo nasce il grande futuro del nostro meraviglioso paese.